24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Il presidente della Commissione europea Barroso vede il premier Berlusconi, bene le misure italiane, oggi il voto sulla manovra. Chiusura in netto rialzo per le borse europee, ma tensione altissima sui titoli di Stato del vecchio continente. Le vittime dei preti pedofili denunciano il Papa al Tribunale dell'Aia, per loro è colpevole di crimini contro l'umanità. Bentrovati da Roberta Pellegatta ad un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Nessuna necessità di misure aggiuntive rispetto all'attuale manovra italiana, così la Commissione europea ha chiarito ieri i concetti contenuti nel rapporto sullo stato delle finanze pubbliche. E ieri è stata anche la giornata di Silvio Berlusconi a confronto con le istituzioni comunitarie. Sentiamo. Il viaggio della discordia porta più polemiche che risultati a un Silvio Berlusconi che, dal cuore dell'Europa, attacca le opposizioni e finisce sotto il fuoco delle polemiche del centro-sinistra europarlamentare. La visita del premier inizia poco prima di pranzo a Bruxelles, dove incontra il presidente europeo Van Rompuy. Al termine c'è spazio quasi solo per il monologo in italiano di Berlusconi, che spiazza i giornalisti stranieri. Il premier non lascia spazio ad alcuna domanda e attacca l'opposizione. È chiara l'intenzione di rovinare l'immagine del presidente del Consiglio, ma così facendo invece stanno, a mio parere, rovinando l'immagine del paese. Berlusconi si dice certo che il voto sulla manovra costituirà un segnale importante, punta all'inserimento del vincolo sui conti pubblici in ordine nella Costituzione e si dice convinto di raggiungere nel 2013 il pareggio di bilancio. Poi promette nuove misure per fisco e crescita, prima di chiedere a Bruxelles di indicare l'aumento dell'età pensionabile. Da parte sua il sempre educato Van Rompuy definisce ambizioso il pacchetto italiano e concorda con Berlusconi sulla necessità di una maggiore governance europea. A metà pomeriggio, accompagnato dal direttore generale del Tesoro Grilli, Berlusconi fa capolino a Strasburgo per quello che definirà un incontro costruttivo con il presidente della Commissione Barroso, infine la visita al presidente dell'emiciclo Buzek. A pochi metri di distanza i leader dei socialisti e verdi europei accusano Berlusconi di aver usato l'Europa per nascondersi dai processi interni. Napoli è lontana, oltre 1200 chilometri. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. Chiusura positiva per le borse europee che hanno vissuto una seduta all'insegna della volatilità e del nervosismo e le notizie su una teleconferenza fissata per oggi tra i capi di Stato di Grecia, Francia e Germania e il possibile intervento a favore dell'Europa dei paesi BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, hanno rianimato i mercati sul finale. Madrid la migliore, ha guadagnato il 2,53%, Francoforte salita dell'1,85%, Parigi ha guadagnato l'1,41%, Londra ha segnato un più 0,87%. A Milano il FTSE MIB è salito del 2,19%, l'All Share dell'1,87%. Sono state ben comprate le banche, con le BPM volate dell'8,3%, beneficiando della scommessa che il fondo Sator di Matteo Arp sia sul punto di entrare nel capitale con il benestare dei sindacati. La borsa ha inoltre tenuto gli occhi puntati su Fiat S.P.A., più 1,1%, nel giorno in cui l'amministratore delegato Sergio Marchionne, dal salone dell'auto di Francoforte, ha confermato i target per fine anno, ma ha ammesso che i prossimi due anni saranno molto difficili, soprattutto in Italia. Se sono rimbalzate le Buzzi, più 4,2%, le Lottomatica, più 4,5% e le Fonsai, più 3,97%, le Luxottica hanno lasciato sul parterre l'1,6% e le Finmeccanica l'1%. Tra le azioni fuori dal paniere principale, sono volate del 20% le Meridie, festeggiando ancora la notizia che la controllata MedSolar ha siglato un accordo per la produzione di energia elettrica da fonte solare. Eleonora Micheli da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore. E intanto sui mercati forti aumenti sui rendimenti all'asta dei buoni del tesoro. Lo spread, il differenziale tra i BTP italiani e i Bund tedeschi, ha toccato un nuovo record di 406 punti. Nel pomeriggio poi lo spread è sceso assestandosi sui 388 punti base. Si chiama Il contagio, il nuovo libro di Loretta Napoleoni, in cui l'economista italiana tesse un filo tra la rivoluzione democratica dei giovani del Nord Africa e la protesta civile nelle città europee, da Madrid a Londra, il tutto spinto dalla crisi del debito sovrano, quella che oggi porta l'Italia a cercare il sostegno nelle casse di Pechino. Sentiamo Loretta Napoleoni al microfono di Gigi Ronelli. Diciamo, l'aspetto più umiliante di questa storia è che ci dobbiamo rivolgere a qualcuno, cioè come siamo arrivati a questi livelli, ma soprattutto come siamo arrivati ad un livello in cui accettiamo questo debito come una realtà normale. Invece di essere un'umiliazione, quindi di in un modo o nell'altro ripagarlo, andiamo, facciamo la coessua nel mondo alla ricerca di qualcuno che se lo compri. Lei scrive, tra l'altro, se William Shakespeare fosse vivo oggi, la sua prossima tragedia potrebbe avere come sfondo i fatti londinesi dell'agosto 2000. 2011. Ma quello che è successo a Londra sono stati questi scontri che hanno lasciato un po' tutti sbigottiti, perché a differenza delle altre rivolte che si stanno verificando nel Nord Africa, nel Medio Oriente ed anche in Europa, che sono pacifiche, qui invece abbiamo avuto veramente degli scontri molto molto violenti, una situazione direi quasi anomala per quanto riguarda l'Europa. In Inghilterra c'è una sottoclasse, un sottoproletariato che sono totalmente emarginate dalla società. C'è anche l'elemento razziale che si sovrappone all'elemento economico, e quindi questa è una miscela tremenda che potrebbe esplodere di nuovo in qualsiasi altro momento. Voltiamo pagina. Le vittime dei preti pedofili passano all'azione e chiedono l'intervento del Tribunale Penale Internazionale dell'Aia contro il Papa e altre tre alti esponenti vaticani. La Santa Sede non replica. Incriminate il Papa per gli atti di pedofilia compiuti dai sacerdoti. È quanto chiede la Corte Penale Internazionale dell'Aia, un gruppo di associazioni statunitensi di vittime dei preti pedofili. In un ricorso accusano Benedetto XVI, il segretario di Stato Tarciso Bertone, il suo predecessore Angelo Sodano e il prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, William Levada, di crimini contro l'umanità per la copertura dei reati commessi da prelati contro i minori. L'associazione spiega di aver deciso questo storico passo per proteggere tutti i bambini innocenti e gli adulti vulnerabili. Il Vaticano non ha commentato questa decisione, ma quale impatto può avere questa mossa nel percorso antipedofilia della Chiesa? Sentiamo lo psicoterapeuta Camillo Valgimigli. Piano politico che la cosa probabilmente può avere una certa risposta. Se questa è una mossa per cercare di pagare, come è successo in America, i danni per quello che è avvenuto, allora può andare anche bene. Bisogna andare a vedere se la Chiesa in questi gruppi di lavoro che sta facendo trova delle alternative. Tutto questo mentre è al lavoro la commissione di esperti promossa dal Vaticano per elaborare le linee guida antipedofilia entro maggio 2012. Inoltre, dal 6 al 9 febbraio dell'anno prossimo si terrà a Roma un simposio scientifico promosso dall'Università Gregoriana che riunirà vertici vaticani, vescovi, superiori religiosi ed esperti da tutto il mondo. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Duro colpo per la riforma di Schengen elaborata dalla Commissione europea dopo lo scontro tra Italia e Francia sugli immigrati sbarcati a Lampedusa. In una dichiarazione congiunta diffusa ieri, Francia, Germania e Spagna affermano a chiare lettere che non condividono la proposta messa a punto da Bruxelles per affidare all'esecutivo europeo la responsabilità di decidere se, come e quando sospendere in parte o in toto l'applicazione dell'accordo che elimina i controlli alle frontiere interne dell'Unione europea. In particolare Parigi, Berlino e Madrid contestano l'idea che sia Bruxelles ad avere un ruolo fondamentale quando bisogna decidere sull'eventuale ripristino dei controlli alle frontiere nei casi di minaccia terroristica o di eventi sportivi e politici a rischio. Adesso un'analisi dell'OCSE. L'Italia spende poco per la scuola. In Europa fanno peggio solo Slovacchia e Repubblica Ceca. Italia in coda tra i paesi industrializzati per la spesa nella scuola, gli stipendi degli insegnanti e il numero di laureati e diplomati, ma ai primi posti per le ore passate sui banchi e anche per le ridotte dimensioni delle classi, perlomeno sulla base del rapporto allievi-insegnanti. È la fotografia scattata dall'OCSE nello studio annuale sui sistemi di istruzione dei principali paesi del globo. Nel 2008 l'Italia dedicava solo il 4,8% del PIL all'istruzione, 1,3 punti percentuali sotto la media OCSE, finendo così al 29esimo posto sui 34 paesi che aderiscono all'organizzazione. Tra il 2000 e il 2008 la spesa per la scuola primaria e secondaria in Italia è aumentata solo del 6%, contro la media OCSE del 34%, e si tratta del penultimo incremento tra i paesi avanzati. Altro capitolo, gli stipendi degli insegnanti, che sono tutti inferiori alla media OCSE. Ci vogliono 35 anni per un prof delle medie per arrivare al top del salario, contro i 24 della media OCSE. Quanto alla scarsità di laureati e diplomati, solo il 28% dei giovani italiani tra i 25 e i 34 anni hanno una laurea, contro i 37 della media OCSE. E siamo anche qui agli ultimi posti. Giuliana Licini, da Radio Caor, per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il calcio con la Champions League in chiusura, stasera in campo Inter e Napoli, nerazzurri che ospitano i turchi del Trabzonspor, i partenopei fanno visita al Manchester City di Mancini e Barotelli. Tra le altre sfide di giornata da segnalare Benfica Manchester United e Villarreal Bayern Monaco. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa, grazie a Mauro De Angeli in regia, a voi per l'ascolto, un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.